Capitolo 3. La città del sole di Tommaso Campanella, 1602. La cosiddetta utopia riguardo a un mondo di giustizia, uguaglianza e abbondanza per tutti ha trovato nella storia dell'umanità diversi portavoce, che spesso sono stati torturati e condannati dal potere dominante per evitare che le loro eresie potessero diffondersi, invitando così gli esseri umani a prendere coscienza di sé. E a questo proposito non posso non descrivere approfonditamente l'opera geniale e coraggiosa di Tommaso Campanella, un visionario più forte dei suoi persecutori. Nel 1568, in una catapecchia di un piccolo villaggio calabro, nacque uno dei più lucidi e liberi pensatori della storia umana, Tommaso Campanella. La sua condizione di nascita era talmente povera da non consentirgli neppure la frequenza alla scuola elementare. Precocissimo e affamato di sapere, il piccolo Tommaso ascoltava le lezioni dei suoi coetanei seduto sotto la finestra all'esterno dell'aula. Per poter uscire da un ambiente sociale che lo opprimeva e ne comprimeva la mente, egli chiese di entrare in seminario. In lui non ardeva una vera vocazione religiosa, ma solo il bisogno di fuggire da una realtà nella quale non sarebbe sopravvissuto. Grazie all'ordine domenicano, cominciò a studiare e a saziare finalmente il suo bisogno di conoscenze e di comprensione. Grammatica e teologia, medicina e astrologia, magia e scienza, tutto egli divorava in una inestinguibile sete di sapere. A 20 anni, trasferito a Cosenza per proseguire gli studi a livelli superiori, cominciarono i problemi per il giovane Campanella. Venne a contatto con la fisica naturalistica di Telesio, la divorò e la trovò totalmente logica e gratificante, senza sapere che si trattava di una delle opere proibite dalla Chiesa. In quel periodo Telesio morì e Campanella scrisse un devoto e appassionato carme di elogio che affisse al suo catafalco. Fu punito dai suoi superiori con l'isolamento. In quell'eremo solitario nel quale fu confinato, trovò libri e amici e scrisse la sua prima opera, dimostrando che la filosofia può essere spiegata con i sensi. È evidente che questo non è un atteggiamento cattolico e men che meno adatto a un monaco. Fuggì e arrivò a Napoli, dove visse liberamente per qualche tempo, frequentando ambienti colti e scientifici. Scrisse molto, fu nuovamente richiamato e questa volta subì il suo primo processo. Aveva 23 anni. Condannato a tornare in Calabria, fuggì alla volta di Roma, donde passò a Firenze, quindi a Bologna e a Padova, sempre sperando in un aiuto che non giunse mai per potersi stabilire, lavorare come docente e continuare a scrivere. I suoi scritti, che ormai spaziavano dalla fisica alla cosmologia, dalla politica alle scienze naturali, dalla cabala alla gnosi, erano compromettenti. Nessuno si fidava d'essergli amico. Campanella era pericoloso. Pensava addirittura che la scrittura più importante, l'unica che non si potesse manomettere o interpretare furbescamente, fosse il libro della natura, che fu vergato con caratteri indelebili durante i primi 6 giorni della creazione. A Padova incontrò un giovanissimo professore, fresco di nomina, con il quale avrebbe stretto un'amicizia che durò per tutta la vita. Si chiamava Galileo Galilei. Dal 1593 fino alla fine dei suoi giorni fu continuamente perseguitato, arrestato, torturato, rilasciato o condannato. Dovette sottomettersi all'umiliante cerimonia della biura per condanna ed eresia. Lui, totalmente innocente, geniale e libero pensatore. Dopo 5 anni, ingiustamente accusato da un detrattore, fu nuovamente arrestato e questa volta condannato a tornare in Calabria. Era la fine dei suoi sogni di studio e di divulgazione delle sue idee. Tornato nell'angusta cella del monastero calabrese da cui era partito, si gettò a corpo morto in un'impresa visionaria e pericolosissima che gli sarebbe costato il resto dei suoi giorni in carcere. Decise di creare la sua utopistica Società del Sole in Calabria, liberandola tanto dai malviventi locali quanto dal giogo spagnolo e feudale. La sua ribellione contava già centinaia di aderenti quando fu nuovamente denunciato e arrestato per lesa maestà e ancora per eresia. Cominciò il periodo più orribilmente doloroso e buio della sua vita. A 31 anni il geniale ricercatore fu incarcerato e sottoposto alle più atroci torture per un periodo di ben 27 anni. Riuscì a farsi credere pazzo e in questo modo scampò il patibolo, ma non gli anni della più atroce prigionia, durante i quali, prostrato, malato, affamato, non smise mai di dettare ai secondini che gli mostravano simpatia, volumi e volumi di scritti che i suoi fedelissimi attendevano fuori dal carcere per portarli a pubblicare in Germania. In Italia, anche dopo la sua liberazione, la mole immane delle sue opere provocò paura e invidia. I volumi venivano trattenuti con pretesti oscuri, revisionati e sottoposti a tagli che ne minavano la logica conseguenzialità, ma Campanella era talmente indomabile che prese le parti dell'amico Galileo, arrestato e processato anch'egli per eresia in quel periodo. Dovette nuovamente fuggire dall'Italia, travestito da frate Minimo, viaggiando di notte. Nel 1634, finalmente, giunse a Parigi, dove fu accolto trionfalmente da tutto il mondo della cultura di Oltralpe. 5 anni dopo, senza essere riuscito a pubblicare che il 30% di tutto ciò che aveva scritto, si spense a 70 anni nel convento domenicano di Parigi e fu sepolto nella fossa comune, come un semplice frate. Una luce sul futuro, una mente geniale e indomabile, sopravvissuta a quasi 30 anni di persecuzioni e torture. Si era spenta, lasciandoci però un patrimonio scritto su cui riflettere, da cui trarre ispirazione: La città del sole. La società perfetta di Tommaso Campanella. Il testo La città del sole fu scritto nel periodo più oscuro e terribile della sua vita, quando con tutte le sue forze lottò per sopravvivere ai tormenti che giornalmente per anni gli vennero inferti dall'Inquisizione e per salvaguardare il messaggio di cui si sentiva portatore. Su pezzi di carta che i suoi carcerieri gli passavano di nascosto, egli scriveva la visione di una società compiuta e perfetta, nella quale ognuno era sazio e felice. Poi riusciva a far uscire i suoi scritti dalla prigione, dove i suoi discepoli li trascrivevano e li facevano pubblicare. La narrazione si svolge sotto forma di dialogo tra un cavaliere dell'ordine degli ospitalieri di San Giovanni in Gerusalemme, una fratellanza contemporanea a quella dei Templari, considerata sua diretta antagonista, e un marinaio di Colombo. La scelta del primo interlocutore è indicativa di una ben precisa posizione in ambito esoterico. L'altro dialogante è un marinaio dell'equipaggio di Cristoforo Colombo poco prima di imbarcarsi. Nuovamente viene scelta una figura, quella di Colombo, che ha cambiato le sorti del mondo, qualunque sia la teoria che si accetta riguardo alle motivazioni e ai finanziatori del suo viaggio. Nel mio libro del 2005, Gradale, il segreto della torre, ho ripreso e confermato la teoria di Umberto Bartocci, secondo cui Colombo non si sbagliò. Al contrario, egli aveva ricevuto coordinate precise del nuovo mondo dai suoi confratelli templari, che vi erano stati 100 anni prima. La scelta dei due interlocutori stupisce. Si tratta di un membro di una fratellanza e un marinaio di Colombo, entrambi rappresentanti di un sistema occulto di intendere la realtà e di una specifica presa di posizione nei confronti della dimensione ordinaria. Campanella non avrebbe potuto certo scegliere un templare come interlocutore senza aggravare la sua già pericolosa posizione agli occhi dell'Inquisizione. Infatti, la Fratellanza Templare era stata ufficialmente smembrata ai tempi di Campanella già da circa 300 anni ed era comune opinione che i Templari fossero stati giustiziati. Oggi sappiamo che solo pochi morirono e che la maggior parte si salvarono ricostituendo l'ordine in forma segreta e nascosta. Secondo me, quindi, utilizzando la figura dell'ospitaliero, Campanella voleva in realtà evocare quella di un templare a chi era in grado di comprendere il collegamento. Sono convinta che gli fosse stato avvicinato e contattato dai templari di nascosto e che il suo sapere e la sua filosofia siano molto vicine a quelle della fratellanza. La creazione di una città celeste faceva parte dei progetti templari fin dal ritrovamento del disegno raffigurante la Gerusalemme celeste ad opera di Lambert de Saint-Omer sotto l'altare del Tempio di Salomone, come spiego nel mio libro Gradal, il segreto della torre. Tutto parla di una precisa impostazione templare ed occulta della società del sole di Campanella. E sebbene l'isola felice in cui prospera questa società sia collocata ufficialmente in Oriente, sono propensa a credere che quell'Oriente sia lo stesso che Colombo ufficialmente era partito per trovare, cioè l'America. Già nelle prime righe il marinaio racconta di essere giunto alla Terra Celeste sfuggendo ad un attacco e dice testualmente: «Mi rifugiai nella selva e sbucai in una grande pianura sotto l'equinoziale». Sebbene la critica ortodossa colleghi la parola equinoziale a una latitudine del nostro pianeta, io non riesco a non pensare alla precessione degli equinozi, cioè, come per l'Apocalisse di Giovanni, che descrive un tempo e non un luogo, si vede il mio libro La via degli immortali, anche qui penso all'indicazione di un tempo, la fine del ciclo precessionale degli equinozi, quindi la domanda non è dove, ma quando. La città del Sole è costituita da sette cerchi concentrici collegati, ognuno ad uno dei sette pianeti principali. Si entra attraverso quattro strade che si incrociano al centro e che ricordano troppo i quattro fiumi della Gerusalemme celeste apocalittica per trattarsi di una coincidenza. Le quattro porte d'ingresso sono allineate alle quattro direzioni sud, est, ovest e nord. Molte colonne ornano la città e al centro della cinta più interna, la settima, sorge una collina sovrastata da un pianoro, nel mezzo del quale è stato costruito un tempio perfettamente tondo, con l'altare al centro. È evidente che questo è un tempio pagano o cristiano delle origini, poiché non ha i connotati della chiesa, con navata e transetto che si intersecano a formare la croce cattolica. Sopra l'altare vi è una mappa celeste che rievoca la nostra origine stellare, di cui sicuramente Campanella era al corrente. Inoltre sono segnati, dice, i poli e i circoli. L'autore usa proprio questi due termini ed è evidente che intende due cose diverse. Quindi, se i poli sono il polo nord e il polo sud, i circoli cosa sono? Potrebbero essere i circoli disegnati dall'asse terrestre nel suo moto trottoliforme durante il ciclo precessionale? Nel tempio vi è un libro in lettere d'oro di cose importantissime, che contiene segreti per pochi eletti. Campanella non ne fa più menzione nel resto del testo, ma ci viene fatto di pensare alla conoscenza segreta di cui il libro è simbolo in molte narrazioni e tradizioni misteriche, non ultima quella di Galgano di Montesiepi, colui che conficcò la spada nella roccia in Toscana presso la rotonda di Monte Siepi, dopo aver visto in sogno e raggiunto faticosamente un luogo meraviglioso nel quale fermarsi per sempre. Anche a Galgano i 12 che lo aspettavano nel luogo meraviglioso consegnarono un libro chiuso che rimase tale. Si veda di nuovo il mio libro La via degli immortali. Interessantissimo è il sistema di insegnamento che viene utilizzato per istruire i ragazzini. La città è composta di sette livelli, abbiamo detto, tanti quanti i pianeti allora ufficialmente conosciuti. Le mura di ogni livello, nella città del sole, sono coperte di figure di tutto lo scibile umano che i bambini memorizzano in maniera subliminale durante i giochi. Vengono infatti condotti a giocare proprio sotto le mura del livello che sono pronti per apprendere. Nella parte interna del primo livello vi sono tutte le figure geometriche e i teoremi, da Archimede a Euclide, mentre sulla parte esterna si trovano le carte geografiche e le mappe del mondo conosciuto. Il secondo livello, dalla parte interna, presenta pietre e metalli e le loro virtù curative, mentre l'esterno riporta un elenco di vini, liquori, elisir e bevande terapeutiche fatte con erbe. Erbe e alberi sono dipinti nell'interno del terzo livello con le loro virtù e le loro affinità energetiche con pietre e metalli. Decisamente una conoscenza questa che non può più lasciare dubbi sulla via alchemica intrapresa da Campanella e sul perché fu così duramente perseguitato, un destino non diverso da quello di altri alchimisti come Giordano Bruno o Cagliostro. Conoscenze anatomiche e biologiche sono raffigurate in dettaglio all'esterno. Nell'interno delle mura del quarto livello è la volta degli uccelli, mentre l'esterno è dedicato a rettili, serpi, vermi e insetti con le proprietà dei loro veleni. L'autore, inserisce tra gli uccelli la fenice e tra i rettili il drago. Il quinto raffigura, sia all'esterno che all'interno, i restanti animali terrestri, tanti quanti non sappiamo noi la millesima parte, scrive. Sono talmente tanti che prendono entrambe le facce delle mura. Nel sesto muro, all'interno, Campanella pone tutte le arti meccaniche e i loro inventori, come servirsene e come vengono usate nelle diverse parti del mondo. All'esterno vi sono gli inventori delle scienze e delle leggi. Incredibilmente, l'erudito profeta elenca tra costoro anche Mosè, Giove, Osiris, Mercurio e Maometto. Gesù si trova tra loro, onorato, ma alla pari, seguito da Cesare, Alessandro e Pirro. Come pensare a questo punto che dall'inizio domenicano Tommaso Campanella non sia passato decisamente ad una fase iniziatica? Se necessitasse un'ulteriore conferma, basta estrapolarla dalla seguente descrizione dello stato delle donne. Si risolsero a vivere alla filosofia in comune, si ben la comunità delle donne. Nella città del sole è stata abolita la proprietà privata. Tutto è in comune e chiunque può servirsi di ciò che necessita, rimettendolo poi a disposizione della collettività. Naturalmente non esiste coppia di diritto né matrimonio, poiché anche questa è una forma di proprietà privata. Esistono coppie di fatto che si protraggono finché ciò è gradevole e utile per entrambi i membri. I figli sono figli della comunità e vengono allevati e amati tutti in egual misura, senza distinzione né preferenze da parte dei genitori per i propri figli. Scrive Campanella, tutte le cose sono comuni, non solo il vitto, ma le scienze e onori e spassi sono comuni, ma in maniera che non si può appropriare di cosa alcuna. Dicono essi che tutta la proprietà nasce da far casa appartata ai figli e moglie propria, onde nasce l'amor proprio. Ovvero l'ego, che per sublimare a ricchezza o dignità il figlio o lasciarlo erede, ognuno diventa o rapace pubblico o avaro e insidioso e ipocrita. Ma quando perdono l'amor proprio, resta il comune solo. Il che significa che anche secondo Campanella il controllo dell'ego, e quindi la fine della falsa credenza di una separazione tra gli esseri viventi, sia l'unico modo per poter creare una società dove tutto è in comune. Se tutti gli esseri viventi formano un unico organismo, non ha senso che esista la proprietà privata. Sarebbe come dire che lo stomaco decide di tenere il cibo solo per sé. Ma, obietta l'interlocutore, nessuno vorrà più lavorare aspettando che siano gli altri a farlo. La risposta è che il grande amore per la loro città, che è di tutti loro, li spinge a lavorare dando il meglio di sé. Meno posseggono e più lavorano per il bene comune, poiché questo bene è anche il loro, in quanto membri di questa società. E la conseguenza più straordinaria di questa generosità e non attaccamento è che non possono nemmeno donarsi alcunché, in quanto già tutto posseggono, ovvero possono utilizzare. Non c'è nulla di cui abbiano bisogno e un dono sarebbe una forma di proprietà privata. Nessuno può prendere o utilizzare più di quanto realmente gli sia necessario e, scrive, però quanto è bisogno tutti l'hanno, s'aiutano e si insegnano l'un l'altro e tutti li giovani s'appellan frati o fratelli e sorelle. In tutte le società evolute vi è sempre stata questa formula del distribuire le derrate alimentari in base alle esigenze di ciascuna famiglia, in maniera che tutti vengano sfamati adeguatamente. Cosa che non può avvenire se vi è un solo padre di famiglia che lavora per 3 figli o per 20. Poiché nella città ideale ognuno è chiamato a fare ciò che riesce e non di più, il padre di 20 figli non è costretto a spaccarsi la schiena per riuscire a malapena a sfamare tutti, in quanto la collettività provvede adeguatamente ad ogni suo membro. Mi racconta il mio fratello andino Jimmy Parada che la società Inca era basata sullo stesso principio. Il mais, le patate e gli altri alimenti venivano raccolti in enormi silos di pietra, ancora oggi visibili nel sito archeologico di Piquillacta, vicino Cusco, e successivamente ridistribuiti secondo necessità. Inclinazioni e parità di diritti. Tornando alla Città del Sole, ad ognuno viene assegnato un compito in base alle sue specifiche inclinazioni che vengono osservate fin da bambini. Donne e uomini hanno le stesse possibilità di studiare e di realizzarsi, sebbene la musica sia lasciata quasi esclusivamente alle donne, poiché ne traggono maggior piacere. Quando i ragazzini raggiungono l'età per lavorare, vengono messi alla prova in diverse attività, artigianato, agricoltura, arte o studio, fino a che non sia chiaro in cosa eccellono. E conseguentemente vengono impiegati in quell'attività, come succede ancora oggi nelle comunità native Mapuche, in Cile. È interesse suo proprio e della comunità intera che ognuno si applichi in un mestiere che gli sia gradito e che lo svolga con passione e attenzione. Questo è fondamentale perché ognuno dia il meglio di sé nella sua attività. Non vi può essere noia, stanchezza, demotivazione o rabbia quando una persona fa quello che le piace o per cui si sente portata. Inoltre non viene richiesto di superare le 4 ore di lavoro quotidiano, poiché il resto del tempo deve essere utilizzato per imparare e per svagarsi. Scrive: tutto il resto è imparare giocando, disputando, leggendo, insegnando, camminando e sempre con gaudio. In questo modo viene garantito il funzionamento ottimale della società. In particolare l'esercizio dell'agricoltura è obbligatorio per tutti. Pubblici servizi, attività fisica e studio sono alternati in maniera che tutti vi abbiano accesso e che tutti prendano parte alla gestione della cosa pubblica. Ho scoperto che in Perù, precisamente nelle isole del lago Titicaca, dove ancora vivono ceppi di antiche popolazioni Aymara, ancora oggi vige la regola che tutti gli appartenenti al villaggio alla domenica si riuniscono per prestare la loro opera gratuitamente nella costruzione di strutture comuni. I giovani ancora, scrive, in campagna, nei lavori e nella pastura delle bestie pur vanno a imparare, e quello è tenuto di più gran nobiltà che più arti impara e meglio le fa. E tra loro non c'è ozio nullo, se non quello che li fa dotti. Che però vanno in campagna a correre, a tirar dardo, sparare archibugi, seguitar fiere, lavorare, conoscer l'erbe, mo una schiera, mo un'altra di loro. Nella società campanelliana sono meritevoli di essere definiti nobili soltanto coloro che lavorano. Non esiste nobiltà nell'ozio e nello sfruttamento delle classi sottoposte, come invece voleva il costume dell'epoca in cui i nobili non si sporcavano le mani con il lavoro. Non esistono classi privilegiate né discriminazioni tra arti nobili e vili. Servire gli altri crea la vera nobiltà. L'ideale di Campanella si concreta in una repubblica dove tutti siano uguali, uomini e donne, e dove tutti lavorino in egual misura, pacifici e sereni, accomunati da fratellanza e sorellanza nel lavoro e nello svago, senza ambizioni personali, ma solo collettive. Ciascuno in grado di soddisfare le proprie inclinazioni naturali, mettendo a servizio degli altri ogni proprio talento, in un clima di cooperazione entusiasta e appagante per tutti. Proprio a tale proposito, Campanella si scaglia contro la costruzione politica aristotelica, ancora oggi insegnata nelle scuole, che prevede l'utilizzo di schiavi per i lavori manuali. Coloro che appartengono a una medesima specie, scrive Campanella, quando entrano a far parte di un composto naturale unico, concorrono tutti a costituirne l'essenza e ne diventano parte integrante. Ora i contadini sono della stessa specie e quindi parte essenziale di una cittadinanza composta da loro e dai nobili. Gli uni e gli altri, infatti, sono per natura animali politici e compongono l'ordine politico della società civile come soggetti parziali di un'unica specie. Piedi sono i contadini, mani gli operai, testa i governanti, occhi i consiglieri, tutti però membra appartenenti ad un unico corpo, né basta a dissociarli dal corpo il fatto che non esercitino le stesse funzioni, altrimenti un corpo sarebbe costituito da un membro solo. A governare sono i sapienti e le sapienti, poiché solo loro possono avere a cuore in egual misura il benessere proprio e di tutti gli altri. Le guide vengono scelte in base alla loro conoscenza e culture, e sole cioè il leader assoluto, è colui o colei che sa più di tutti, che è maestro in ogni arte e attività e che sa fare tutto. Viene scelto o scelta in base alla sua preparazione, cultura e sensibilità. Non vi è un diritto acquisito alla leadership che si possa trasmettere di generazione in generazione. Anche perché questo sarebbe una forma di proprietà privata. I tre principi che reggono il mondo, secondo Campanella, sono potenza, sapienza e amore. I medici hanno cura di suggerire ai cuochi giorno per giorno cosa e quando cucinare, per essere in assoluta sintonia con le energie celesti. Inoltre, per ogni età e condizione fisica, vi sono menù adeguati. Nella società ideale, coloro che amano cucinare e ne sono idonei se ne occupano come attività per tutta la collettività. Nemmeno la mensa è privata, si mangia tutti insieme, a meno che non si preferisca specificamente prendere i pasti da soli. Nella città del sole le vesti hanno colori adatti alle diverse età e nel corso dell'anno vengono mutate ad ogni cambio di stagione, ovvero i due solstizi e i due equinozi. Campanella insistette molto sull'importanza di una riforma del vestiario e dei colori da indossare come sistema per contribuire alla salute e al risveglio della consapevolezza. E ora viene il punto fondamentale. Scrive: oro e argento non si stima se non come guarnimenti comuni a tutti. Il punto è che se non esiste proprietà privata non vi è nulla da comprare. Se tutto è in comune si ha accesso liberamente a ciò che serve senza preclusioni di sorta. Tutti hanno il necessario per vivere al loro meglio, garantito da questo sistema di produzione e distribuzione ottimale dei beni. Essi sono ricchi e poveri al contempo, dice Campanella. Ricchi perché in ogni momento hanno libero accesso a qualsiasi bene, poveri perché non lo posseggono e non se ne crucciano, non si attaccano a servire le cose, ma sono le cose al loro servizio. È evidente che in un contesto come questo il denaro non serve come merce di scambio, poiché non vi è neanche scambio. Anche il sistema dello scambio merci è antiquato e prevede una valutazione che nella società perfetta non può esistere, in quanto il valore di un bene non viene dalla sua scarsità o dal tempo impiegato per crearlo o dal tipo di materiale prezioso, come nella nostra. Il valore di un bene nasce dalla disponibilità di esso, in maniera più che sufficiente e gratificante per tutti, quindi non è e non può essere un valore monetario. Chiarisce Campanella che la roba non si stima perché ognuno ha quanto gli bisogna. Ricordiamo che nelle antiche società meso-sudamericane, Inca, Maya e Azteche, l'oro era usato esclusivamente per ricoprire i templi e per creare oggetti rituali agli dèi, in quanto elemento in risonanza con il sole. Infine, gli abitanti della città del sole di Campanella chiedono beni e non denaro, anche negli scambi con le popolazioni straniere, approvvigionandosi così delle merci di cui loro non dispongono. Un pagamento in denaro non avrebbe infatti alcun senso per loro. Grazie a questo perfetto ecosistema, gli abitanti della città del sole vivono fino a 170 e anche 200 anni in buona salute e quando si ammalano spesso si curano con suoni e allegrie. Campanella era probabilmente al corrente di come il buon umore produca endorfine che alzano il sistema immunitario, una sorta di predecessore del dottor Patch Adams e della sua teoria sulla terapia del sorriso. Per Campanella il sole è padre e la terra è madre. La terra è definita come un grosso animale sul quale noi ci muoviamo, come i vermi si muovono nel nostro corpo. Il geniale studioso anticipò così di secoli la teoria di Gaia, ovvero che la terra è un organismo vivente e senziente, e applicò all'intero pianeta l'assetto ermetico, come nel grande così nel piccolo, equiparando la nostra vita sul pianeta a quella dei microrganismi che vivono nel nostro corpo in simbiosi con noi. Ma il sole astro è solo la rappresentazione fisica di un sole nero, invisibile, cuore e madre dell'universo. Campanella, sebbene ferrato tanto nella scienza astrologica quanto nell'esoterismo, al punto da dare Importanza al colore degli abiti non fa mai riferimento alla luna come simbolo di energia femminile. E questo non può derivare da una sua presunta misoginia di Monaco, in quanto proprio dalle pagine di La città del sole emerge una società in cui donne e uomini hanno pari diritti e doveri e le donne hanno diritto allo studio e al benessere tale quale i loro compagni. Quindi deve esserci un'altra motivazione e questa, a mio avviso, emerge dal nome della sua città. Non può che essere la consapevolezza che l'energia femminile non è lunare, ma si sprigiona dal sole nero, proprio quel cuore del mondo da cui parte la vita in tutto l'universo. Come ho spiegato in La Via degli Immortali, l'invenzione del binomio luna-energia femminile, come controparte del sole-energia maschile, è stata operata da chi voleva sancire una volta in più la dipendenza della femmina dal maschio, così come la luna dipende dal sole per risplendere. Campanella, così libero da paraocchi sessisti, così anticonformista e lungimirante, vide e cercò di lasciare ai posteri un occulto indizio sulla vera essenza e presenza dell'energia femminile, in modo che solo chi abbia orecchie per intendere, intenda.